24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 20 secondi di questo lunedì 22 giugno inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati in questo inizio di settimana nel quale mi soffermo molto brevemente sulla prima pagina di un quotidiano britannico, Daily Telegraph, che come tutti dà grande spazio a quanto è accaduto in un sobborgo di Londra, a Reading. C'è stato un attentato da parte di un giovane libico che era peraltro già sotto sorveglianza del servizio segreto britannico, e quindi il quotidiano si chiede perché, se era sotto sorveglianza, non è stato sorvegliato meglio, visto l'attacco e gli accoltellamenti che il giovane ha prodotto. Ma vorrei passare invece subito a Le Figaro. Sapete che in questo fine settimana si torna a votare in Francia, ci sono le elezioni amministrative, in tanti comuni si elegge il sindaco, e si elegge il sindaco anche a Parigi, dove la sindaca attuale, Anne Hidalgo, viene data in vantaggio. Ebbene, di che parla Le Figaro? Parla del problema topi, perché effettivamente Parigi è minacciata dai roditori, ce ne sono tantissimi per le strade, si incontrano proprio sui marciapiedi che passeggiano molto tranquillamente. Durante il lockdown erano diminuiti perché non c'erano tutti i rifiuti lasciati per esempio fuori ai ristoranti, ma ora sono tornati. E allora che cosa è successo? In un quartiere di Parigi si è scatenata una brigata cittadina di cittadini appunto parigini che, armati di un camion frigorifero che contiene ghiaccio secco, danno la caccia ai topi e cercano di sterminarli, non aspettando che il comune ci pensi, anche se sotto elezione dovrebbe essere molto attivo il comune nella antirattizzazione, però l'hanno fatto loro, ed è un grande servizio su una pagina delle Figaro. Sì, la brigata cittadina anche antitopi, a tutti noi che abbiamo visto Ratatouille della Disney, questa cosa dà un grandissimo dolore, perché ce li immaginiamo invece a cucinare nei ristoranti parigini. Scrive una, a proposito di rassegna stampa, scrive un ascoltatore: siete vergognosamente schierati, avete fatto una rassegna stampa a senso unico pro Covid, come se ci fosse un pro Covid e un contro Covid. Vabbè, passiamo ad altro e andiamo a questi stati generali. Buongiorno Stefano Boeri, architetto, che ieri era insieme ad altre persone del mondo della cultura e anche dello spettacolo a questo incontro convocato dal presidente del Consiglio Conte, dal governo. Buongiorno Boeri. Buongiorno. Eccoci qua. Senta Boeri, Maria, prima di farti fare la prima domanda, mi devi togliere una curiosità. Boeri, com'è andata questa storia di Elisa? Com'è stato? Il presidente del Consiglio le ha detto: può cantare per favore, e lei ha cantato. Come ha funzionato? Sì, sì, è andata così. Devo dire che c'era un clima molto disteso, non c'era nessuna ingessatura, per cui a un certo punto è stato chiesto dal presidente Elisa di contribuire anche con un suo pezzo, diciamo, dal vivo, e lei ci ha pensato un po'. Non è stato subito una risposta positiva, ma poi è arrivata e è stata anche, devo dire, molto piacevole. Ed eccola qua. Va bene, vai Maria, prego. Non posso competere con Elisa, cioè non ho, lasciamo qualche nota a lei, la voce è molto molto più piacevole. Senta architetto Boeri, intanto le è sembrata una buona idea convocare esponenti autorevoli della cultura e del mondo dello spettacolo nella giornata finale, perché se non ci fossero stati si sarebbe detto: ah ecco, non si dà peso alla cultura, non si tiene conto dei gravi problemi che stanno impedendo al mondo dello spettacolo per esempio di lavorare, e questo è un tema. D'altra parte il vostro invito è stato ha fornito argomenti ai critici, no? Per dire: vabbè, ma con tutti i problemi che ci sono andiamo a intervistare le archistar e le cantanti. Ma in questi casi c'è sempre il rischio della passerella, quindi credo che tutti noi sul lato, diciamo, opposto del tavolo del governo avessimo questa preoccupazione, anche sinceramente. Le devo dire, altrettanto sinceramente che è stato un incontro molto serio, anche in alcuni punti aspro di discussione, e noi abbiamo tutti, devo dire, presentato delle proposte molto concrete, attuabili anche in larga parte, e quindi la discussione è stata soprattutto una discussione del merito. Quindi sinceramente io ho avuto una, e credo di poter parlare a nome di tutti quelli che erano con me, ho avuto una buonissima impressione dell'efficacia di questo incontro. Abbiamo parlato di scuola, per esempio, è stato uno dei temi fondamentali di come le scuole possono riaprire usando gli spazi dei teatri, dei cinema, ma come anche ecco, le scuole... Ce lo spiega? Ce lo anticipa? Beh, questo è stato un punto importante, nel senso che naturalmente dal mondo dello spettacolo dal vivo, altro tema che abbiamo affrontato tutti, c'è una domanda enorme di riprendere una vita, un'attività, e naturalmente tenendo conto delle garanzie di sicurezza, però c'è questa domanda fortissima, e una opzione è quella di andare incontro a una domanda altrettanto forte nel mondo della scuola, che ha bisogno di spazi, perché probabilmente ci saranno delle domande di maggiori spazi per fare l'attività drammatica, didattica, anche normale, quotidiana. La risposta è stata sì, senz'altro, però abbiamo anche detto, da un altro punto di vista, forse le scuole in futuro dovranno non solo allargarsi nel territorio, ma essere loro stesse capaci di assorbire i servizi che i quartieri del futuro, dove vivremo probabilmente sempre di più, perché l'idea è di una città fatta meno per grandi luoghi centrali e più per quartieri sufficienti, è, io credo, una delle prospettive auspicabili. La scuola ha un ruolo molto importante, la scuola come hub di una comunità, proprio come nodo di servizi culturali, all'ambulatorio, spazi di sentire. Quindi questo è stato per esempio un tema secondo me molto interessante. Boeri, questo citava le città che devono passare a vivere più, no, sul singolo quartiere, è uno degli elementi che lei ha portato nella riunione di ieri, non è la prima volta che lo dice, insomma, no? Ci dà un'idea di come nasce quest'idea e di come si potrebbe sviluppare, di che cosa avete portato di concreto per sostenere quest'idea, cosa ha portato di concreto per sostenere quest'idea ieri? Ma allora, io credo sarà ed è una tendenza già anche in alcune politiche di alcune grandi città, penso a Parigi per esempio, che avete appena citato, che ha lanciato questa idea anche di una, come dire, di un tempo massimo di 15-20 minuti perché tutti i cittadini possano accedere ai servizi necessari alla vita quotidiana, pedonalmente. Questo chiaramente cambia la prospettiva, diciamo che in generale lo scenario potremmo riassumere è quello di una città dove appunto i luoghi centrali che sono stati pensati alla fine dell'Ottocento come grandi attrattori di folle, di corpi, stanno declinando, e qui naturalmente parliamo certamente delle fabbriche, ma anche dei mercati generali, ma anche dei centri commerciali, in favore di una struttura di una città che funziona più come arcipelago di quartieri autosufficienti dentro cui ci si muove appunto avendo tutti i servizi. E questo è un modo non solo per tornare anche a una scala umana nei rapporti, nelle relazioni, ma anche per, diciamo, utilizzare al meglio quello che abbiamo imparato durante questi 3 mesi così difficili, cioè che c'è oggi la possibilità per molte professioni, non tutte, di poter lavorare in modo autonomo dalla sede dell'ufficio, dello spazio professionale, ma ci dà anche l'idea di una città meno congestionata, una città che richiede meno spostamenti e dunque una città con una scala appunto di relazioni più umane. Io credo che questa è una cosa che in parte succede già. Io ieri ho fatto un esempio, se volete così vi spiego bene anche, e ho portato come esempio la Garbatella, che è un quartiere di Roma, che Roma non è una città in questo momento all'apice del successo, devo dire, ma io devo dire, quando penso a un quartiere che ha quelle caratteristiche, che naturalmente non è perfetto, ma funziona come un quartiere in cui ci si riconosce come un'identità di chi abita, che però si è aperto anche all'università, che ha una varietà di culture, che ha i servizi. Ecco, mi viene in mente la Garbatella come esempio. Io penso che dovremmo avere città che funzionano come arcipelago di realtà di questo tipo. Tra l'altro la Garbatella è anche vicina a Fiumicino. Un'altra cosa di cui lei ha parlato agli Stati Generali e che mi sembra molto interessante è la rivalutazione dei borghi. In molti durante il lockdown hanno avuto la fortuna di potersi trasferire rapidamente, che ne so, nella casa dei nonni in campagna e da lì continuare a lavorare. Noi abbiamo borghi che si stanno desertificando. E lei ha detto il futuro potrebbe essere appunto di gente che invece di abitare in una grande città va a vivere in un borgo dove si vive meglio, dove la qualità della vita è sicuramente migliore, ma per tutto questo c'è bisogno di una banda larga che funzioni. Ci sono previsioni di tempi in cui secondo lei questa migrazione al contrario, noi abbiamo avuto le grandi migrazioni degli anni 60 dal sud, dai piccoli villaggi del sud alle grandi città, Torino, Milano. Ecco, secondo lei questa migrazione al contrario si può fare e in quanto tempo potrebbe realizzarsi? Ma sono fenomeni quando nascono dal desiderio, veramente dalle scelte di vita di migliaia e migliaia di famiglie. Come dire, potentissime, quindi stiamo parlando anche, per esempio, mi lasci dire, negli anni 80 abbiamo avuto un fenomeno di dispersione, no? Questa cosa che è stata chiamata sprawl, città diffusa, noi conosciamo questi quartieri di villette, palazzine, centri commerciali, autolavaggi che stanno attorno a tutte le città italiane e che, diciamolo francamente, hanno distrutto anche il nostro territorio, hanno peggiorato la qualità del paesaggio. Ecco, io penso che oggi noi dobbiamo cercare di evitare che qualsiasi alternativa alla vita in città, apro la parentesi, dobbiamo fare tutto perché le città funzionino meglio, da qui nasce l'idea di città con una scala di relazioni più umane, meno congestione, eccetera. Beh, insomma, evitare che ci sia quel tipo di dispersione, noi possiamo farlo meglio di di altri paesi europei perché abbiamo questa straordinaria costellazione di piccoli borghi in aree interne che non sono lontani, prima di tutto, che possono costituire un'alternativa alla vita urbana, nel senso che sono luoghi di vita urbana. Potenzialmente. Io non ho una nostalgia per la vita campestre o per una dimensione romantica del paese. Io penso che si possa oggi immaginare, come lei diceva, con la banda larga, con un'accessibilità più facile, con la possibilità, io quella proposta che ho portato ieri, di immaginare dei contratti tra le città e le reti di piccoli borghi prossime. È un progetto che in Francia ha dato dei risultati molto interessanti, perché non è una scelta antiurbana, si va lì e si realizza una situazione di vita urbana in un piccolo centro a contatto con la natura, avendo naturalmente tutte le connessioni possibili e avendo alle spalle la presenza della città come bacino d'utenza. Quindi mi immagino che uno che va a fare, facciamo un esempio, l'agricoltore, non deve preoccuparsi della sussistenza come succede oggi, perché avendo alle spalle le catene commerciali riesce a avere più sicurezza sul lavoro, e questo vale per il turismo, vale per la cura dei boschi, vale per molti lavori professionali. Quindi in un futuro prossimo o già nel presente, in cui la settimana lavorativa ha cambiato fisionomia, perché io vedo quello che succede a Milano anche nel mio studio, ma penso a quello che succede in generale oggi, davvero c'è la possibilità di avere 4-5 giorni in cui uno può, diciamo, delocalizzare il proprio corpo, comunque pensare di poter lavorare anche senza stare in ufficio. Questo, Boeri, mi permette, questo ci porta al polemicone scattato nel fine settimana dopo le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, che sono le parole sullo smart working, no? Questo è un po' duro, bisogna uscire dalle caverne, ha detto Sala, a dire che questo è stato un home working forzato. Bisogna un po' ripensare questo, non si può pensare di far tutta la vita fuori da un ufficio. Che dice lei, come la vede? Ma io penso che quello che Sala voleva dire era soprattutto cerchiamo di uscire da una certa pigrizia, cioè, diciamocelo francamente, io penso che per tutti un po' di inerzia psicologica dovuta a questa botta tremenda, perché è stata comunque un obbligo, come dire, improvviso a una vita inaspettata, diversa, e ci ha lasciato un senso di fragilità soprattutto molto molto profondo, e quindi la reazione alla fragilità è spesso la nicchia, è spesso la cuccia per la... Quindi da questo punto di vista forse poi le parole non sono state quelle giuste, ma il senso era di dire uscite dalla cuccia, provate a riprendere la vita. Dopodiché io sono sicuro che oggi chi chi lavora a casa lavora tanto, io lo vedo perché, per esempio, ripeto, nel nostro lavoro noi abbiamo lavorato moltissimo stando a casa, e quindi è vero ed è verissimo che non si può certo dire che l'home working sia un'attività da fannulloni, tutt'altro, perché poi spesso il lavoro da casa è un lavoro difficile, molto più, come dire, richiede molta più attenzione, c'è però, come dire, una necessità di isolamento che per molti non è facile, è una cosa complicata, quindi diciamo credo che sia stato un equivoco. Maria, se non hai altre domande, salutiamo Stefano Boeri, o hai qualcosa in chiusura? No, una cosa soltanto: quando ero piccola io c'era la festa degli alberi ed era una cosa molto importante, molto solenne, e tutta la scuola elementare si riuniva e ciascun bambino piantava un albero. Ho visto che lei ci crede molto e ha chiesto appunto che tanti alberi vengano piantati, il Premier Conte ha promesso 1 milione di alberi, perché è così importante? Gli alberi migliorano la vita, assorbono le polveri sottili. Guardi, adesso ieri ho parlato anche del tema, di un tema nazionale che è il bacino padano. Noi abbiamo avuto qui un problema enorme con le polveri sottili. Si capirà a breve. Le regioni del mondo dove ci sono state una maggiore intensità di contagio sono state quelle dove c'erano questi veleni nell'aria che indeboliscono i polmoni. È una cosa molto semplice. E quindi abbiamo un problema di assorbire le polveri sottili, produrre più ossigeno, e questa cosa la fanno gli alberi. Ieri ho iniziato il mio intervento mostrando un albero in gallura, che è un straordinario olivo che ha 4.000 anni, cioè praticamente è lì da prima della crescita delle piramidi in Egitto, per dire che gli alberi hanno anche, come dire, una capacità incredibile di raccontare la resistenza e la resilienza. Infatti il 21, come lei diceva, la festa degli alberi, ho proposto di ritrovarci attorno a questo olivo, ce ne sono altre di piante che hanno 3.000-2.000 anni in Italia, e secondo me è anche, credo, psicologicamente un segno importante. Grazie Stefano Boeri, architetto, per essere stato con noi, presente ieri agli Stati Generali. Cara Maria, io non ho resistito. Carmelo, vai. me l'hai chiamata. Ora fischietto, però. Attenti che fischietto. Ta ta ta ta ta. Le cose d'ogni giorno. Andiamo in pausa e poi parliamo col ministro Enzo Amendola. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Alle 8:41 minuti siamo con Enzo Amendola, ministro degli affari europei. Buongiorno ministro, eccoci. Buongiorno a tutti voi, buon lunedì. Maria, prego. Buon lunedì a lei, ministro. Senta, intorno alle decisioni dell'Europa ci sono due grandi domande che inquietano il mondo del lavoro. La prima è: quando arriveranno i soldi? E la seconda: saremo capaci questa volta di spenderli? Chi si occuperà di questo? Esisterà un piano che va a controllare intanto dove sono collocati i fondi e poi se quella realizzazione, quell'ospedale, quella scuola, quel centro industriale vengono realizzati? Allora, cominciamo dalla prima domanda, poi la seconda ce la dirà se crede, ma insomma la prima domanda è: quando arrivano i soldi? Beh, innanzitutto mi fa piacere che una domanda che 5 settimane fa era la prima, adesso è scomparsa. La domanda è: perché l'Europa ci ha abbandonato? Ecco, siamo saltati a un altro schema. Abbiamo preso delle scelte, l'abbiamo fatto come Europa, come 27, Commissione, BCE, quindi adesso stiamo chiudendo da qui a luglio i negoziati. Che cosa abbiamo adesso? Abbiamo le scelte fatte dalla Commissione su aiuti di Stato e sospensione del patto di stabilità, che ci permettono le manovre espansive che ogni paese fa, come ha fatto l'Italia con due manovre da 80 miliardi. La BCE col programma acquisto titoli ovviamente regge l'economia europea sui mercati, con spread che sono sotto controllo, e adesso stiamo chiudendo il terzo elemento, che è coordinato, quello del Consiglio europeo, cioè dei 27 che stanno facendo un investimento da quasi 1.800 miliardi tra bilancio pluriennale e Next Generation. Quando arriveranno? Arriveranno quest'anno, abbiamo delle reti di protezione, tre reti di protezione a 540 miliardi che sono già attivate. Parlo di Sure, parlo di Bay, parlo della linea di credito del MES. Ci sono degli anticipi nel 2020 anche di Next Generation, di questo progetto della Commissione, tra due fondi, uno di fondi europei, React-EU, un altro chiamato Solvency, l'equity per le imprese, ma è evidente che quell'accordo che faremo da qui a luglio prende vita già dal 2021, perché sono tutti fondi dedicati all'investimento. Quindi reti di protezione già attivate adesso, la BCE che già è attiva adesso e poi tutto il programma di investimenti. La seconda domanda è quella più importante, cioè dato che sono tutti fondi ingenti, la maggior parte sussidi per investimenti vanno programmati, perché la Commissione non avrà regole di condizionalità macroeconomiche come debito, deficit, ma avrà una condizionalità molto giusta secondo me, cioè questi fondi andranno spesi in base a cronoprogrammi, in base a dei capitoli centrali come transizione ecologica, transizione digitale, saranno spesi per crescita economica, per investimenti, per far calare il debito. Quindi sono due domande che hanno assolutamente legame con quello che stiamo facendo in queste settimane. E sul lato Amendola del controllo di questi soldi, come li spenderemo? Ma guardi, il negoziato che stiamo concludendo, la Commissione sarà l'elemento centrale del controllo. La Commissione è quella che sta con i bond, prenderà queste risorse, 750 miliardi, e verranno ridistribuite, verranno assegnate in base a dei capitoli di spesa, a cronoprogrammi, cioè la consegna delle risorse avviene a rate, più ci sarà uno stato di avanzamento dei lavori, dei progetti, di schede, di piani nazionali. Più li spendi bene, più il flusso prosegue, in sostanza, certo. In sostanza è così. Allora, una breve pausa, Ministro, poi torniamo da lei. Mattino. Prego Maria. Ministro, alla fine degli stati generali sono emerse alcune linee guida che dovranno cambiare questo paese e sulle quali mi sembra ci sia un accordo. Adesso bisognerà capire se dalle parole e dagli annunci passeremo ai fatti. Gliele elenco: una rete unica per il web e anche il denaro elettronico come passaggio importante, il codice appalti rivisto col rilancio delle grandi opere. E poi la riduzione delle aliquote, la green economy, la produttività, c'è cioè quel messaggio che ha molto colpito, 500 bonus a giovani donne che vogliano percorrere un percorso da manager e quindi avere una formazione più alta. In tutto questo il Premier ha proposto anche una riduzione dell'IVA. È prioritaria secondo lei? Davvero può dare un boost all'economia? O non sarebbe meglio che quei soldi, perché costerebbe tanto, vadano direttamente alle voci che ho elencato prima? Guardi, io penso che la vera priorità da mettere già in campo questa settimana, come ha annunciato il Premier Conte, sia la semplificazione delle procedure amministrative. Mi riferisco innanzitutto alle procedure di spesa, di programmazione, proprio legandomi alla sua domanda di prima, perché ovviamente ingenti risorse vanno programmate e spese in maniera veloce, quindi la precondizione per tutto quello che dobbiamo fare sarà questo decreto semplificazione che cambia i meccanismi. Io ho visto che era una delle richieste queste. Ministro, mi scusi però non ci sfugga, come lo vede il taglio dell'IVA? Ma la rimodulazione dell'IVA ne abbiamo già discusso all'inizio, quando abbiamo fatto la prima legge di bilancio, lei si ricorderà tutti i calcoli, sono tutte scelte che vanno fatte in base alla compatibilità di bilancio, quindi il ministro Gualtieri saprà fare uno schema che sia credibile per rilanciare i consumi, ma anche per portare un po' più di equità tra le aliquote. Ma se devo essere proprio onesto, il primo tema su cui tutte le imprese private, tutti gli stakeholder pubblici e privati che hanno partecipato a quella riunione era un cambio radicale della macchina amministrativa. E non per sfuggire, ma per dare un'indicazione di priorità, che significa questa settimana, in base anche agli annunci del Premier Conte, da dar vita è proprio quello di cambiare la macchina, altrimenti tutti i progetti di cui stiamo discutendo diventano abbastanza aleatori. Maria? La porto brevemente sulla politica politicante, che interessa forse relativamente i nostri ascoltatori, ma siccome fa parte anche della vita del suo partito, del PD, un breve cenno. Allora, nei giorni scorsi il sindaco di Bergamo, Gori, che viene da un percorso non politico, era un alto dirigente di Mediaset, poi un produttore televisivo, poi è stato anche il consigliere di Renzi per qualche tempo, vabbè, insomma, ha detto che bisogna cambiare segretario. Gli hanno risposto in molti, praticamente tutti, dicendo abbiamo altre priorità, scusi. Lei che cosa vede dietro queste, diciamo, polemiche estive in un momento in cui appunto si stanno decidendo cose importanti? Ma guardi, come PD lei conosce bene, sappiamo delle rituali, soprattutto a volte estivi, di polemiche. In questo caso mi spiace per il sindaco di Bergamo, per Gori, che è una persona assolutamente stimabile, ma mai come in questi mesi, proprio dovuti anche a una situazione abbastanza senza precedenti, il PD è unito intorno al segretario, persona seria e concreta, e mai come in questo periodo il nostro partito non si distingue per polemiche interne che in passato riempivano i giornali. Quindi, con tutto il rispetto che si ha per una persona come Gori, ma non credo che sia questo il tempo di fare. Beh, è comunque un segnale di ritorno alla normalità per il Partito Democratico. Allora, ascolti, si dovesse scegliere tra taglio dell'IVA e taglio delle tasse sul lavoro, lei come la vede? Ma guardi, io non rubo mai il mestiere, perché siamo in una fase in cui già abbiamo fatto protezione sociale con ingenti spese, quindi il taglio del cuneo, come sa, era già materia della scorsa legge di bilancio, e abbiamo aperto una nuova strada. Adesso dobbiamo vedere tutte le manovre da 80 miliardi che effetto hanno soprattutto sulla coesione sociale e scegliere di conseguenza. Noi una cosa possiamo essere, non dico più sereni, ma più soddisfatti, perché il periodo della recessione è dura, e che comunque con questa strategia coordinata a livello europeo abbiamo, non dico una luce fuori dal tunnel, ma abbiamo una prospettiva di investimenti. Facciamo molta coesione e protezione sociale adesso, dobbiamo invertire la rotta e tornare a crescere, e i progetti europei ci daranno una mano in questo senso. Quindi mi affido a Gualtieri a luglio, quando chiuderemo tutte queste, anche queste trattative europee, per verificare quelle che sono le priorità di cassa e di investimenti. L'obiettivo è coesione, ma anche tornare a crescere, perché tornare a crescere ci dà anche una linea di curva in discesa del debito pubblico, che ovviamente in questi mesi si è alzato molto, giustamente. Torno alla prima domanda che le ho fatto, Ministro. Dal 1 luglio la Germania, quindi Angela Merkel, avrà la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo lei ci sarà un'accelerazione nel processo dei fondi? Perché la preoccupazione è duplice. Da un lato che il Recovery Fund arrivi nel 2022, nel 2023, da un lato, e dall'altro che ci sia una bella riduzione della cifra che era stata in un primo tempo annunciata, cioè che invece di 750 miliardi i cosiddetti paesi frugali o avari, come qualcuno suggerisce di chiamarli, Olanda, Austria, Svezia e Danimarca, ottengano una bella sforbiciata ai soldi che dovrebbero arrivare non solo all'Italia, a tutti gli altri paesi. Ma l'impegno sarà massimo. Domani verrà in visita il ministro degli affari esteri olandese, io ricambierò la visita. È un periodo questo di negoziati, quindi non c'è nessun veto, ecco, questa è la notizia positiva. Il progetto da 750 miliardi è sul tavolo, con i bond che quattro settimane fa alcuni pensavano che fosse una roba irrealistica. Dobbiamo lavorare ovviamente per togliere quelle resistenze che ogni Parlamento nazionale ha di diverso segno. In Italia si urla per avere più risorse, in altri parlamenti si urla per darne di meno. Quindi è tutto un impegno da fare. La presenza tedesca, secondo me, sarà molto utile, vista anche le scelte, quelle fatte da Angela Merkel sui bond, sull'impegno europeo. E mi faccia dire che avere da luglio tre vertici donne dell'Unione Europea, BCE, Commissione, Consiglio Europeo, credo che sia anche un segno positivo dei tempi. Sono ottimista perché riusciremo a mettere in coordinamento queste tre scelte fatte negli ultimi mesi. Abbiamo veramente 30 secondi, Amendola. Per il buon esito della trattativa è necessario dire sì al MES, ossia andare in Europa e dire e trattare su questi nuovi soldi senza aver accettato un prestito a quelle condizioni che sappiamo non rischia di essere inefficace? No, guardi, io capisco tutto il dibattito italiano, ma le tre reti di protezione, SURE per la disoccupazione, BEI e MES, linea di credito per la sanità, sono state già attivate, sono sul tavolo e sono strumenti a disposizione degli stati che ne vogliono usufruire. Quindi il Consiglio europeo adesso discute di bilancio e di Next Generation. Poi ogni paese discuterà come attivare, quale attivare. L'Italia sicuramente attiverà velocemente SURE per la disoccupazione e, come abbiamo sempre detto come governo, dopo che chiuderemo anche questa ennesima trattativa da qui a luglio, valuteremo tutti gli strumenti che hanno anche delle valenze diverse, di impegno e risorse retroattive, cioè, quindi sì, sono anche strumenti che valgono per il passato. Quindi questo è un po' il quadro delle trattative. Grazie, grazie Enzo Amendola, Ministro degli Affari Europei, buona grazie giornata, buon lavoro. Buon viaggio grazie in Olanda quando andrà, ci faccia sentire. Grazie Jacopo De Franchi, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, Carmelo Lauricella in regia. Maria, domani alle 8:20. A domani Simone, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, tutti. Ciao.